Il pellegrinaggio. Ci sono due tipi di pellegrinaggio. Essi sono il pellegrinaggio maggiore, al-Hajj, e il pellegrinaggio minore, al-Umrah. Dice Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, nel sublime e sapiente Corano: il pellegrinaggio maggiore alla casa per amore di Allah è un dovere di ogni uomo che ne abbia la possibilità. Eseguite il pellegrinaggio maggiore al Hajj e il pellegrinaggio minore all'Umra per amore di Allah. Il pellegrinaggio maggiore al Hajj è il quinto pilastro dell'Islam.